Ad alta voce, Elisabetta Piccolomini legge Jane Eyre di Charlotte Bronte, traduzione di Monica Pareschi. Seduto nella poltrona rivestita di damasco, Rochester era diverso da come mi era sempre apparso in precedenza. Meno austero del solito e molto meno cupo. Aveva il sorriso sulle labbra e gli brillavano gli occhi. Non sono sicura che fosse l'effetto del vino, ma lo ritengo probabile. Era più disteso e gioviale. E anche più indulgente con se stesso e meno freddo e scostante rispetto al mattino, e tuttavia aveva sempre un'aria decisamente antipatica, con la testa massiccia sprofondata nello schienale rigonfio della poltrona e la luce del fuoco che gli illuminava la faccia intagliata nel granito e gli enormi occhi neri, perché aveva occhi enormi e anche molto belli, non privi di un'intensità mutevole che, se non era dolcezza, almeno la ricordava da vicino. Da 2 minuti fissava il fuoco, mentre io nel frattempo fissavo lui. Poi all'improvviso si girò e colse il mio sguardo. «Mi state esaminando, signorina Eyre?» disse. «Mi trovate bello?» Se ci avessi pensato un po', avrei risposto alla domanda in maniera convenzionale, educata, evasiva. Ma le parole mi uscirono dalla bocca prima che me ne rendessi conto. «No, signore!» «Ah, siete proprio un bel tipo, parola d'onore!» esclamò. Con quell'aria stramba da suorina zitta zitta seria di messa, sempre seduta con le mani incrociate e gli occhi bassi, tranne quando me li piantate in faccia trapassandomi come adesso, per esempio. E quando uno vi fa una domanda o dice qualcosa che richiede un commento, sputate fuori una risposta che, se non è velenosa, è come minimo tagliente. Cosa intendete dire? Signore, sono stata troppo schietta, vi chiedo perdono. Avrei dovuto replicare che non è facile dare una risposta su due piedi a una domanda sull'aspetto di una persona, che è una questione di gusti. Che la bellezza non è poi così importante o qualcosa del genere. Ma niente affatto. La bellezza non è poi così importante. Ha ha ha. E così, fingendo di riparare all'offesa precedente di lisciarmi e blandirmi per farmi stare buono, mi date una bella coltellata a tradimento. Avanti. Che difetti trovate che abbia? Si può sapere? Mi sembra di avere gambe, braccia e tutto il resto come chiunque altro. «Signor Rochester, mi rimangio la risposta. Non volevo ferirvi, ho sbagliato». «Lo credo anch'io. Adesso però dovete rendere conto delle vostre parole. Criticate pure». «Non vi piace la mia fronte?» Sollevò le ciocche di capelli scuri e ondulati che gli scendevano sul viso e scoprì un apparato cerebrale piuttosto consistente, che tuttavia mancava del tutto di quella soavità che è segno di un'indole benevola. «Allora, mia cara, vi sembro un imbecille?» «Tutt'altro, signore. Mi giudichereste maleducata se vi chiedessi invece se siete per caso un filantropo?» «Ecco!» Finge di accarezzarmi la testa e mi dà un'altra coltellata. «Tutto questo perché ho detto che non mi piace la compagnia dei bambini e delle vecchie signore. Parliamo a bassa voce». «No, cara la mia signorina, non amo particolarmente il genere umano, ma ho una coscienza». E nel dire questo indicò le protuberanze che dovrebbero indicarne la presenza e che per sua fortuna erano notevoli e anzi davano un'ampiezza di tutto rispetto alla parte superiore della testa. «E un tempo avevo anche un cuore piuttosto tenero, per quanto primitivo. Quando avevo la vostra età, ero un tipo abbastanza sentimentale. Stavo dalla parte dei deboli, dei diseredati, degli infelici. Ma da allora la vita mi ha bistrattato, anzi, mi ha plasmato a forza di pugni. E adesso sono fiero di essere duro e resistente come una palla di gomma. Però, ancora permeabile attraverso un paio di fessure e con un punto sensibile nel mezzo. Proprio così. Credete che abbia qualche speranza? Speranza di cosa, signore? Di trasformarmi definitivamente da palla di gomma a essere umano. Chiaramente ha bevuto troppo vino, pensai, e non avevo idea di cosa rispondere a quella stravagante domanda. Come potevo saperlo io se poteva ritrasformarsi? Sembrate davvero molto imbarazzata, signorina Eyre. E anche se non siete bella, come non lo sono io, l'imbarazzo vi dona. E poi casca a fagiolo, perché tiene coi vostri occhi così penetranti lontano dalla mia faccia e li costringe a occuparsi dei fiori di lana sul tappeto. Via libera all'imbarazzo, dunque. Mia cara, stasera mi sento in vena di essere socievole e comunicativo. E con questo annuncio si alzò dalla poltrona e rimase in piedi col braccio appoggiato al camino di marmo. In quella posizione, oltre alla faccia, si vedeva bene anche la sua corporatura e si notava come l'ampiezza insolita del torace fosse quasi sproporzionata rispetto alla lunghezza degli arti. Sono certa che la maggior parte delle persone l'avrebbe considerato brutto. E tuttavia l'inconsapevole fierezza nel suo portamento, la disinvoltura nel suo modo di fare, la completa indifferenza per il proprio aspetto, l'orgogliosa sicurezza nella forza di altre sue qualità intrinseche e occasionali, compensavano ampiamente la mancanza di semplici attrattive fisiche, al punto che chi lo guardava non poteva provare la stessa indifferenza. E si fidava ciecamente di quella sicurezza. «Stasera mi sento in vena di essere socievole e comunicativo», ripeté, «ed è per questo che vi ho mandato a chiamare. Il fuoco e il lampadario non mi bastavano come compagnia, e nemmeno Pilot, perché a tutti e tre manca il dono della parola. Adele è un gradino più su, ma sempre molto al di sotto del minimo accettabile. Lo stesso dicasi per la signora Fairfax». Voi, invece, ne sono convinto, potreste essere adatta se lo vorrete. La prima sera che vi ho invitata a scendere mi avete lasciato perplesso. Da allora mi sono praticamente dimenticato di voi, ho avuto altro per la testa. Stasera, però, ho deciso di starmene in pace, di lasciar perdere tutte le noie e dedicarmi a quel che mi aggrada. Mi piacerebbe farvi parlare, saperne di più sul vostro conto. Dunque... «Parlate!» Invece di parlare sorrisi, e non era certo un sorriso compiacente né sottomesso. «Parlate!» insistette lui. «Di cosa, signore?» «Di quel che vi pare, lascio senz'altro a voi la scelta dell'argomento e il modo di trattarlo». Per tutta risposta rimasi lì senza aprire bocca. «Se crede che parli tanto per parlare, per mettermi in mostra, ha davvero sbagliato persona», pensai. «Avete perso la favella, signorina Eyre?» Continuai a tacere. Lui abbassò leggermente la testa verso di me e con una sola occhiata rapida sembrò immergersi nei miei occhi. «Testarda?» disse. «E infastidita?» «Ma sì, per forza. Ho posto la domanda in maniera assurda, quasi insolente. Signorina Eyre, vi chiedo perdono. Il fatto è, una volta per tutte, che io non voglio trattarvi da inferiore, o meglio, e qui si corresse, l'unica superiorità che reclamo è quella dei 20 anni che mi separano da voi e del vantaggio che mi dà un secolo d'esperienza in più. Questo è legittimo e ci tengo. Ed è in virtù di questa superiorità, e di questa soltanto, che adesso vi chiedo di parlarmi un poco, per favore, e di distrarmi così dall'amarezza causata dai miei pensieri, che girano sempre intorno allo stesso punto, torturandomi come un chiodo arrugginito. mi aveva fornito una spiegazione che era quasi un modo per scusarsi. E poiché quelle attenzioni non mi lasciavano indifferente, glielo lasciai intendere. «Mi fa piacere distrarvi un po', se posso, signore. Molto piacere. Ma non so che argomento scegliere, perché come faccio a sapere cosa vi interessa? Fatemi delle domande e farò del mio meglio per rispondervi». «E allora, in primo luogo, siete d'accordo con me che ho il diritto di essere un po' dispotico, rude, esigente magari, sulla base di quello che ho detto, ossia che sono abbastanza vecchio per essere vostro padre e che sono passato per mille esperienze vedendomela con uomini di tutte le razze e che ho percorso in lungo e in largo mezzo mondo mentre voi ve ne siete stata tranquilla con le stesse persone in una sola casa?» «Come volete, signore». Questa non è una risposta, o meglio, è una risposta molto irritante perché è molto evasiva. Rispondete a tono. «Non credo, signore, che abbiate il diritto di darmi ordini solo perché siete più vecchio di me o perché avete visto il mondo e io no. La vostra pretesa di superiorità dipende dall'uso che avete fatto del vostro tempo e della vostra esperienza». Che risposta pronta! Si dà il caso, però, che non mi soddisfi per niente, dal momento che ho fatto un uso indifferente, per non dire cattivo, di entrambi i vantaggi. Lasciando da parte la questione della superiorità, però, dovrete pur ricevere i miei ordini di tanto in tanto, senza sentirvi irritata o offesa dal mio tono autoritario. Lo farete? Sorrisi. «Il signor Rochester è davvero un tipo particolare», pensai. «A quanto pare si è dimenticato che mi paga 30 sterline all'anno per ricevere i suoi ordini». «Il sorriso va benissimo», disse cogliendo al volo l'espressione fugace sul mio viso. «Ma dite anche qualcosa». «Stavo pensando, signore, che ben pochi si preoccuperebbero di irritare o offendere i dipendenti stipendiati con i loro ordini». «Dipendenti stipendiati? Ma come? Non sarete mica un dipendente stipendiato voi?» «Ah, sì, avevo dimenticato lo stipendio. Bene, allora, su questa base mercenaria mi concederete di essere un po' prepotente». «No, signore, ve lo concedo perché vi siete dimenticato di questo particolare. E vi preoccupate se un dipendente si trova bene o no nella sua dipendenza. Su questa base ve lo concedo con tutto il cuore». «E acconsentite a fare a meno di tutta una serie di formalità e frasi convenzionali senza pensare che questa omissione è generata dall'insolenza?» «Sono sicura, signore, che non scambierò mai un comportamento informale con l'insolenza. Il primo non mi dispiace affatto. Alla seconda non si sottometterebbe nessun essere umano nato libero, neppure per uno stipendio». «Sciocchezze! La maggior parte delle creature nate libere si sottometterebbe a qualsiasi cosa per uno stipendio. Parlate dunque per voi e non addentratevi in questioni di carattere generale in merito alle quali siete completamente ignorante. Comunque, per questa risposta, sia pure inesatta, vi stringo idealmente la mano, per il tono ma anche per la sostanza di quel che avete detto. Non capita spesso di sentirlo, un tono così franco e sincero. Al contrario, la schiettezza viene spesso ricambiata con l'affettazione o con la freddezza o con rozzi e stupidi malintesi. Su 3.000 istitutrici fresche di collegio, nemmeno 3 avrebbero risposto come voi. Ah, ma non ho certo intenzione di lusingarvi. Se siete fatta di una pasta diversa dalla maggioranza, non è merito vostro ma di madre natura». «E forse sto correndo troppo, dopo tutto. Per quel che ne so, potreste non essere meglio delle altre. Potreste avere difetti intollerabili a controbilanciare le vostre poche doti». «E lo stesso vale per voi», pensai. Il mio sguardo incrociò il suo mentre l'idea mi attraversava la mente. Lui parve leggermi negli occhi, perché mi rispose come se avessi dato voce al mio pensiero. «Sì, sì, avete ragione», disse. «Io stesso ho molti difetti, lo so, e non ho intenzione di trovare attenuanti, ve lo assicuro. Dio sa che non posso essere troppo severo con gli altri. Ho un passato, una serie di azioni, tutto un modo di vivere su cui riflettere in cuor mio e che potrebbero benissimo attirarmi lo scherno e il biasimo dei miei simili. Ho preso, o piuttosto, sono stato gettato nella cattiva strada all'età di 21 anni e da allora non ho più ritrovato la retta via. Ma avrei potuto essere molto diverso. Avrei potuto essere buono come voi, più saggio, quasi senza macchia. Invidio la vostra pace interiore, la vostra buona coscienza, la purezza dei vostri ricordi. Bimba mia, una memoria immacolata e limpida deve essere un inestimabile tesoro, una fonte inesauribile di ristoro. O no? Com'era la vostra memoria a 18 anni, signore? Ah, dunque... Era sana e perfettamente pulita. Le acque di Sentina non l'avevano ancora ridotta a una pozza fetida. A 18 anni ero come voi, proprio come voi. La natura voleva che fossi nel complesso un uomo buono, signorina Eyre, uno dei migliori. E vedete che non è andata così. Ora vorreste dire che non lo vedete? O almeno mi illudo di avere letto questo nei vostri occhi. A proposito... Attenta a quello che esprimete con quegli organi, faccio in fretta a interpretare la loro lingua. E dunque, credetemi sulla parola, non sono un malvagio. Non dovete pensarlo, del vero malvagio mi manca la statura, eppure credo più per le circostanze che per le mie inclinazioni naturali. Sono un banale peccatore comune, dedito a tutti quei vizi meschini con i quali i ricchi senza morale cercano di rendere interessante la vita. Vi stupisce che lo confessi a voi? Sappiate che nel corso della mia vita futura vi troverete spesso a essere la confidente involontaria dei segreti altrui. La gente capirà distinto, come l'ho scoperto io, che parlare di voi stessa non è il vostro forte e che invece... siete brava ad ascoltare gli altri quando parlano di sé. E sentirà anche che non ascoltate le loro indiscrezioni con malevolenza o disprezzo, ma al contrario, con una sorta di innata simpatia, non meno confortante e incoraggiante per il fatto di manifestarsi con tanta discrezione. E voi come lo sapete? Come fate a dire tutto questo, signore? Lo so bene, per questo parlo liberamente, quasi come se stessi scrivendo i miei pensieri in un diario. Voi direte che avrei dovuto essere superiore alle circostanze, e avete ragione, ma come vedete, non è stato così. Quando il destino mi ha bistrattato, non sono stato abbastanza saggio da ignorarlo. Mi sono lasciato prendere dalla disperazione e infine ho tralignato del tutto. E adesso, quando un qualunque ribaldo suscita il mio disgusto con le sue volgarità da quattro soldi, non posso illudermi di essere meglio di lui. Sono costretto a riconoscere di essere al suo livello. Vorrei tanto aver resistito, sa Dio quanto. Tenete in conto il rimorso, signorina Eyre, quando vi viene la tentazione di peccare. Il rimorso può avvelenare la vita. Beh, dicono che il pentimento è la cura, signore. Non lo è. L'unica cura è redimersi. E io potrei farlo. Ne avrei la forza. Ma a che serve pensarci, con tutti gli ostacoli, fardelli e le maledizioni che mi porto appresso? E poi, visto che la felicità mi è irrimediabilmente negata, ho diritto a qualche piacere nella vita. E ho intenzione di procurarmelo, costi quel che costi. Allora sarete costretto a tralignare ancora di più, signore, dissi alzandomi. Dove andate adesso? A mettere a letto Adele, è fin troppo tardi per lei. Avete paura di me perché parlo come una sfinge. Le vostre parole sono enigmatiche, signore, ma anche se sono disorientata non ho certo paura. Certo che avete paura, e il vostro amor proprio vi fa temere di prendere un granchio. In effetti di questo sono un po' preoccupata. Non ho nessuna voglia di dire idiozie. Se le diceste lo fareste con un tono così grave e composto che io le scambierei per perle di saggezza. Non ridete mai, signorina Eyre? Non datevi la pena di rispondere. È chiaro, ridete raramente, ma sono sicuro che lo fate con gusto quando capita. Datemi retta, voi non siete austera per natura, non più di quanto io sia malvagio per natura. L'educazione repressiva che avete ricevuto a Lowood vi è rimasta in qualche modo appiccicata e controlla i vostri lineamenti, vi smorza la voce, vi impedisce i movimenti e in presenza di un uomo, che sia un fratello, un padre, un superiore o quel che volete, avete paura di sorridere con troppa allegria, di parlare con troppa libertà o di muovervi con troppo vigore. Ma col tempo credo che imparerete a essere spontanea con me, come io trovo impossibile essere formale con voi. E allora il vostro aspetto, i vostri movimenti, acquisteranno una vivacità e una varietà che adesso non si permettono. Di tanto in tanto colgo lo sguardo di una strana specie di uccello attraverso le fitte sbarre di una gabbia, un prigioniero vispo. Irrequieto, deciso. Se solo fosse libero, si alzerebbe in volo fino alle nuvole. Siete ancora decisa ad andarvene? Sono suonate le 9, signore. Non importa, aspettate un momento. Adele non è ancora pronta per andare a letto. La mia posizione, signorina Eyre, col fuoco alle spalle e lo sguardo rivolto alla stanza, mi consente di tenere tutto sott'occhio. Mentre parlavo con voi, ogni tanto osservavo Adele. Ho i miei motivi per considerarla un soggetto interessante e un giorno forse, anzi, sicuramente, ve li rivelerò. Elisabetta Piccolomini ha letto Jane Eyre di Charlotte Bronte, traduzione di Monica Pareschi. A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.